בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Il cuore pulsa, Mauri. Ogni volta che si apre questo microfono, il cuore fa bum bum bum, esatto, pulsa forte. Sì. Come la sigla. Come la sigla. Buonasera a tutti, Blu Radio Veneto in diretta con voi, con Gilles Facchinelli e Maurizio Calzavara, per un'altra puntata delle nostre interviste telefoniche. Questa sera viaggiamo un po' tra la Liguria e la Toscana. Sì, esattamente. E allora, diamo il benvenuto tra gli amici della musica di Blu Radio Veneto a Chiara Gerì. Ciao Chiara. Ciao Gil, ciao Maurizio. Buonasera Chiara, come va? Bene? Tutto bene, grazie per l'invito, un grande piacere. Il piacere, sai che per la musica è sempre prima di tutto nostro. Siamo qui per dare spazio alle vostre voci e alla vostra musica. Allora, presentiamo un attimo Chiara Gerì, ci sarà con noi anche, perché è un duo, ci sarà anche Andrea Barsali, che è il chitarrista l'arrangiatore, vero Chiara? Arrangiatore e chitarrista. È una mezza verità la nostra, come questo. Mezza nota, uguale. Allora Chiara, volevo prima di iniziare ringraziare Chiara Palumbo, due persone che hanno contribuito a questa intervista, Chiara Palumbo e a Stefania Schintu, la detta stampa della Top One Communication, che è stata veramente gentilissima e anche lei ha fatto la sua parte per dare il via a questa intervista. Allora, Chiara, cominciamo a presentare innanzitutto due CD al vostro attivo, uno nel 2010, correggimi se sbaglio, con Mobile Identità, sì. E 2013 con Mezzanotte. Sì. Ecco, allora noi, Maurizio, cominciamo a parleremo di Mobile Identità, perché è doveroso dare un avvio alla storia di questo di Chiara. Mobile Identità inizia nel 2010, da un volto a una voce. 14 brani, 7 perle nere e 7 perle bianche, no Chiara? Sì, Mobile Identità è una prima forma di diario musicale che ho avuto il piacere di poter fare a Genova. È un disco, come dico sempre, corale, perché io non avevo mai fatto musica in una sala di incisione. Ho conosciuto dei musicisti e hanno creduto nella mia voce e abbiamo deciso di fare questo disco. 7 editi che io ho scelto perché amati, e 7 inediti che sono arrivati e affidati alla mia interpretazione. Diciamo Chiara, anche 7 editi, magari qualcuno ha un termine che non conosce benissimo, cosa significa 7 editi? Nel senso che erano delle canzoni già pubblicate da cantanti e cantautori importanti che facevano parte però del mio bagaglio culturale musicale che io ho sempre amato, e quindi avevo deciso di mettere su disco con la mia voce. Chiara, 7 editi, ma non cover, 7 editi, non cioè, cover, esattamente, sì, sì, 7 pezzi rivisitati da te. Di canzoni che io amo molto. Rivisitate, sì. Da te praticamente. Sì, assolutamente sì, perché rappresentavano il mio modo di segnare un periodo della mia vita, e quelle canzoni raccontano degli spaccati emotivi che per me erano importanti e sono tuttora importanti, perché le canto sempre con la stessa passione e ricordando benissimo il motivo per cui le canto, e molto probabilmente è quello che viene fuori. Sì, ho letto, cioè, ho visto nella scaletta di questo primo disco c'era anche Harry Mancini, hai scelto un pezzo di Harry Mancini. Sì, Moon River è Moon River, un classico, assolutamente un classico. Sì, e, sì. Perché ti sei avvicinata a un classico di tale levatura? Chiaramente rivisitato, riscritto dalla tua voce. Perché, te l'ho accennato appena adesso, per me Moon River rappresenta sia nella linea melodica, che trovo meravigliosa, e sia nel testo una dimensione di favola. E quindi è nata come una ninna nanna per un bambino che stava nascendo, sì. e tuttora la canto per augurare sempre qualcosa di fantastico quando la canto. È una dimensione morbida, una nuvoletta. Ecco. Impareremo a conoscere Chiara questa sera, perché ve lo garantisco che è una persona straordinaria. Senti Chiara, nella copertina di Mobile Identità io ho ricavato questa frase: una voce che respira solo per cantare, una danza perfettamente imperfetta, una voce che è musica. Effettivamente la tua voce, e poi lo sentiremo, è musica. Che cosa rappresenta per te questo primo CD? Il primo CD è l'avventura. L'avventura di voler togliere un guscio molto spesso e di uscire fuori e vedere l'effetto che fa. E ci ho provato con l'unico mezzo che ho sentito naturale, la voce. Cantare per me significa non provare grossa paura quando esco fuori dai gusci. Ecco, una bella frase: grossa paura quando esci fuori dai gusci, cioè praticamente la voce ti dà forza. Sì, sì, assolutamente, sì, forza, sì, rompi, sì, tutte le barriere o le difficoltà vengono superate cantando, non è così Chiara? Sì, sì, sì, per me sì, così. Allora Chiara, io direi di presentare, perché vogliamo ascoltare anche cosa effettivamente ci propone Chiara. Noi abbiamo deciso di far ascoltare i brani dal vostro ultimo CD, che nostro. No, è vostro ultimo CD, che è appunto Mezzanotte. E abbiamo scelto la traccia numero 3, che è Amore mio, hai ragione. A me piace tantissimo, come avrai capito, a vedere un attimo i testi. Quando scrivi: ma credimi, ancora se ti dico che i giorni non sono uguali a me, mi alzo, lavoro, poi torno e mi spengo. Neanch'io, allora, lo so perché, aspetta che dico questa perché è bellissima, neanch'io, sì, lo so perché c'era la luna in mezzo a noi, ora il nero separa la notte da ogni colore. Allora, il testo è meraviglioso, questo però è una canzone che io non ho scritto. Che ha scritto, sì, hai ragione. Ha scritto Maurizio Vitollo, sì. È una canzone bellissima che io e Andrea abbiamo deciso di accogliere in Mezzanotte, perché la troviamo assolutamente in linea, sia perché Maurizio poi ha contribuito nella composizione della musica di tutti i miei testi, che poi Andrea ha riarrangiato, e poi come ciclo, come un cerchio che si chiude, ci ha affidato questo pezzo completamente suo, lasciandoci liberi di poterlo interpretare come noi abbiamo fatto, sicuramente con grande passione, e contenti di farlo, perché lo troviamo assolutamente, come hai detto te, un ottimo e un bellissimo pezzo della musica italiana, senza nulla togliere agli altri pezzi che sono presenti nel disco, quali appunto quello di Ciampi o De Gregori, certo, o Pippo, certo, Collina. L'abbiamo trattato nella stessa identica maniera. È un pezzo veramente molto molto bello, intimo, che ho vissuto come tutte le canzoni che poi mi erano state affidate già in passato da Maurizio, e lo trovo potente. Sì, e melodioso, hai detto potente e melodioso. È allo stesso tempo. È la sua caratteristica, ha una melodia che Andrea ha reso in tutta la sua dolcezza, e io penso di aver reso la drammaticità che ho sentito perlomeno nel testo. Quando lo canto mi soffermo molto in quelle parole e provo a darne l'emozione più dolorosa, perché comunque un addio consentito è quasi giustificato. Una persona che ti sta dicendo stai bene ad andare via, non è, è forse più doloroso che una persona che ti sbatte una porta in faccia, appunto, e basta. Allora ascoltiamoci Amore mio, hai ragione, sulla voce di Chiara Gerì e la chitarra di Andrea Barsani. Passione. Per questo che hai ragione, per questo tu hai ragione, amore mio. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Ecco, va sottolineato, Maurizio, almeno questo è il mio, quello che io ho avvertito ascoltando questo CD, come Andrea Barsali sottolinea la voce di Chiara e come si percepisce anche tutta la voglia Chiara di essere te stessa, di trasmettere qualcosa di fortemente legato alle emozioni. Ma Mezzanota è veramente un disco minimale, ma al tempo stesso qualcosa che poi spazia assolutamente nell'emotività. È nato per questo motivo, sono due mondi che si intersecano e liberano quello che sono, rimanendo ben delineati entrambi, ma la magia sta nel fatto che queste due dimensioni poi stanno bene vicine. Anche la magia della voce, molta partecipazione, molto pathos in questo pezzo, Chiara. Sì. Assolutamente, sì, sì. Si sente. A mia ragione è tra i pezzi più sentiti. Sentito, estremamente sentito. Sì. E chi l'ascolta, come noi che abbiamo ascoltato, si percepisce questa sensazione che tu hai, che trasmetti al pubblico, secondo me. Sì, io non so se il fatto di averlo visto nascere o sentire già dalle prime bozze, sapere l'intenzione anche dell'autore, perché lavorare molto sui pezzi significa anche, soprattutto gli inediti, viverli dalle prime radici che i germogli che danno. Però, amore mio, ragione, penso che chiunque la cantasse, secondo me, avrebbe utilizzato un pathos del genere. Una propria espressione, dava una propria espressione, un suo pathos, e tu hai dato il tuo pathos per questo pezzo. Sì, lo sento molto, lo sento in maniera viscerale, lo trovo un pezzo universale, nel senso che questi momenti nella vita di ognuno di noi li abbiamo vissuti, e quindi c'è questa possibilità di trasmetterli con grande sentimento. E tieni presente, Chiara, che io e Maurizio abbiamo ascoltato i brani, ma volutamente non ci siamo confrontati su questo argomento che ti ha detto Maurizio, cioè è questo che ha avvertito anche lui, questa forte emozione nell'ascoltare i tuoi testi, la voce e le note di Andrea. Io volevo tra l'altro anche portarti i saluti, e c'è anche un motivo ovviamente, di Ruben, che dovrebbe essere all'ascolto. Ah. Ecco. Lui è un pezzo di cuore enorme per me, perché un sogno che se n'è andato è uno degli inediti più amati da me di Mobile Identità, e io adoro il modo di scrivere di Ruben. Ho tanti sogni nel cassetto ancora con lui, e ci lega un affetto artistico e umano da tanti anni, e mi ha fatto una sorpresa enorme, perché è una persona a cui voglio molto molto bene. Devo dirti una cosa, Chiara, forse tu non lo sai, Ruba è stato nostro ospite per parecchie volte. Lui è un grande. È un nostro amico, vabbè, un amico proprio che spesso e volentieri ci viene a presentare le sue cose, tante sue cose, tanti interessi musicali a Ruba. Sì, una cultura musicale vastissima. Esattamente. È una persona di una grande sagacia e delicatezza al tempo stesso. Certo. Ecco, io volevo anche sottolineare una cosa, Maurizio, che sì. Ruben nel suo blog, sono andato un po' a visionare, lui scrive: Chiara Gerì scrive e canta con l'anima in mano, Andrea Barsali suona la chitarra con il cuore nelle dita. È così. È così, Chiara? Ha descritto brevemente tutto quello che è Mezzanota. Ma questo non mi meraviglia da parte di Ruben, ripeto, sagace, puntuale, ma di grande delicatezza. Ecco, siete proprio due mezze note che si completano. Metà nota rappresenta la voce e l'altra la musica. E diventa una nota intera. Perché esiste un CD come Mezzanota, Chiara? Te l'ho detto prima, Mezzanota è un momento di incontro, è una necessità di espressione di quello che per noi è la musica. Mezzanota è una mela che quando si morde fa schioc, e quando si assaggia lascia del nettare all'angolo della bocca. Ecco, io la immagino così, ha carattere, ha nervo e è coraggiosa, ma al tempo stesso molto molto emotiva. Questo che volevo ulteriormente sentire. L'avete descritta anche come l'istante in cui l'intenzione diventa musica. Sì. Questa è una descrizione, è la descrizione ufficiale che ha dato Andrea e che io ho appoggiato, ed è giusto che sia così. Secondo te, dopo faremo una domanda anche ad Andrea più tardi, per quanto riguarda te, io parlo di Andrea, come, cosa ha colorato, cosa ha dato Andrea come arrangiatore, come chitarrista ai pezzi di questo disco? Tutto. Intimamente cosa ha dato? Tutto. Penso che di più non si potesse avere, ha dato tutto, ha dato a livello professionale, è stato una colonna portante, una persona che c'è sempre stata e che c'è, ha un talento che potete ascoltare dal vivo e in Mezzanota e in tante altre cose che fa, ma in Mezzanota è l'orchestra, sì. è l'anima della melodia, è ciò che rappresenta meglio per me la musica. Posso è dire, una nota perfetta. Posso dire, Chiara, ha costruito un'orchestra attorno alla tua voce, posso dire sì, questo? Assolutamente sì. Sono stata fortunata. Ecco, vabbè. Benissimo. Allora, Chiara, è venuto il momento di ascoltarci un altro brano, molto, secondo me, è difficile riuscire a far ascoltare tutti i brani perché veramente tutti meriterebbero qualcosa. Goccia a goccia, che è il titolo di questo brano, ha ancora un qualcosa in più. A me ha colpito tantissimo una parte del testo che, se mi permetti, posso leggere, no, Chiara? Certo. Che importa l'innocenza d'uno che muore su di una sedia, un letto da una corda? E quale colpa è tanto giusta e grande da guardare uno che sceglie senza vita l'ultima volta? Di cosa parla questa canzone, Chiara? Allora, hai scelto il pezzo in assoluto che ho scritto, che amo di più e che più mi rappresenta. E forse è quello che ho sempre difeso di più. Andrea l'ha reso nel suo arrangiamento il vero pezzo spartiacque, nel senso che l'ha reso il pezzo raccantato, come diciamo noi. E proprio perché forse questo testo, io ero un pochino restia a questa cosa, perché quando non canto la mia voce non mi piace, però voleva che io raccontassi anche il testo che avevo scritto. A goccia a goccia può essere letto da ognuno di noi come lo sentiamo, nel senso che comunque è molto intimo, ma è sicuramente un momento estremo di solitudine, dove si ha la sensazione che gli altri ti mettano in un momento di scelta terminale, nel senso che scelgono per te, scelgono per la tua vita, e al tempo stesso ti lasciano da sola a vivere questo momento. E questa persona che si ritrova a dover scegliere l'ultimo desiderio in una notte diversa ma sempre uguale, grida che per un istante e solo da uno squarcio di una finestra comunque ha sempre la libertà di vedere il cielo, e quella rimane. E questo vedere il cielo, Andrea ha scelto un arrangiamento che alcuni critici, giustamente secondo me, hanno scritto leggermente ambient, ed è vero, assolutamente, un po' onirico, possiamo dire questo. Certo, infatti la partenza, poi magari questa cosa te la spiegherà meglio Andrea, sì, però è stato bello, difficile e allo stesso tempo molto bello vedere come Andrea ha vissuto questo testo. Lo ha letto praticamente musicalmente, sì, lo ha letto. Lo ha letto e l'ha visto come un sogno, qualcosa che arrivava da lontano, poi si avvicinava, poi ritornava lontano, e così l'ha arrangiato. Uh-huh. E mi ha in un certo qual modo portato a viverlo in maniera nuova, o forse nella maniera per cui era stato scritto e io non me ne ero accorta. Sì, quasi ti trasporta, Andrea, con la musica, ti trasporta, sì, secondo me, io l'ho sentito così, trasportata, dolcemente trasportata, ma sempre trasportata musicalmente. Sì, è una, io penso che ci sia un giusto abbandono da parte di entrambi, nel momento in cui si fa musica insieme e si ha fiducia l'uno dell'altro, sapendo chi hai accanto e le potenzialità dell'uno e dell'altro, ci si abbandona. Uh-huh. Perché sai che non c'è necessità di reti sotto. È un momento importante, questo non capita con tutte le persone con cui si suona, o almeno a me non è capitato mai così. E allora ascoltiamoci questa meraviglia, Goccia a goccia, di Chiara Gerì con la chitarra acustica di Andrea Barsali. Ancora, e forse goccia a goccia è pure giusto per me che guardo il cielo da uno squarcio, le ali un'altra volta, solo una. se goccia a goccia un grave sbaglio per me che sporco il cielo su un soffitto. Goccia è pure giusto per me che guardo il cielo da uno squarcio. Le ali un'altra volta, solo una. E forse goccia a goccia è un grave sbaglio per me che scorgo il cielo su un soffitto. Da Livorno a Genova è sempre un viaggio importante. Perché? Perché vorrei che tu mi parlassi di una giornata un po' particolare, che è Via del Campo 29 Rosso. Ah, l'abbiamo ancora sulla pelle, e nel cuore, nello stomaco. È stata una giornata... Io ero emozionata il giorno del premio di André. L'altro giorno in Via del Campo è stata una sensazione unica. Abbiamo avuto un pubblico gentile, accorto, caloroso, un ambiente unico, non posso dire altro. L'emozione mia di André è stata grande. Ecco, vuoi dire cos'è anche, Chiara, Via del Campo 29 Rosso? Del Campo è un emporio, è praticamente il luogo dove viene costruita la chitarra di André. È una grande famiglia che ama la musica d'autore italiana, è gestita da persone con grande passione per questa e dedizione, e noi abbiamo l'onore di avere entrambi i dischi, sia Mobile Identità che Mezzanota, in vendita lì, ed è per noi una cosa grandissima. Tra l'altro, uno degli slogan di questo ritrovo della musica era "La musica è la chiave", e leggendo i tuoi testi, ascoltandoti, è veramente per te la chiave della vita, la musica. Sì. È una frase proprio adatta. Sì. Sì. Come mai, Chiara, questo grande collegamento, grande trasporto, grande unione con Faber, musicalmente parlando? Perché? No, allora, ascoltami, con Faber penso che chiunque abbia un minimo di gusto musicale non può non sentire un legame viscerale, questo lo dico, ma non con spocchia, ma proprio perché non ci possono essere dei pezzi che ti possono piacere di più o di meno, però Faber ha una voce, un timbro di voce unica, un modo di cantare unico, e ti parlo tecnicamente come piacevolezza d'ascolto. Sì. E in più ha il genio della scrittura. Ecco, e poi tu hai detto un'altra cosa però, i suoi appunti hanno liberato... I suoi appunti sono stati Galeotti. Esattamente. Perché Galeotto è stato lui per molto molto tempo prima. Ah, ecco. Sì, è stata leggere quelle tre righe sulla Raganella, e le Raganella mi piacciono molto, ha fatto sì che nascesse il mio notturno dalle scuole. Sì, che è un pezzo importante, fondamentale per il tuo progetto, secondo me. Sì, è stato un momento particolare, importante, di crescita, e sono contenta che sia avvenuto con un legame così forte con un cantautore che mi porto da tanto tanto tempo come compagno di vita. Amare Faber dalla prima età della ragione ti segna per sempre nell'ascolto delle note e della vita. Sì, è così. Bene. Ti fa sentire anche un po' strano rispetto ad altri, soprattutto in un'epoca più giovane, io ero un pochino strana per i miei coetanei, però io ascoltavo anche della bellissima musica pop nello stesso tempo, perché adoro quello che ho fatto bene, mi piace ascoltare tutto, però un pochino mi rendeva strana quando ascoltavo tanto tanto Faber, quando ero più giovane. Comunque, guarda, tra tanti ospiti che si parla un po' di musica, no, Maurizio, De André è sempre costantemente presente. È un punto di riferimento per tutti il cantautorato italiano, ma non soltanto il cantautorato, che De André va oltre il cantautorato, secondo me. Sì. Assolutamente, ha fatto tante cose importanti, fondamentali, e ha, secondo me ha tracciato certe vie che poi sono state riprese, chiaramente. Un altro musicista che vi trovo che voi apprezzate è Mia Martini, no? Chiara? Sì. Cosa vi lei? Perché è un po' strano, non ci sono tantissimi musicisti nel mondo della musica, appunto, che apprezzino così tanto Mia Martini. Poveri loro. Sta nella sua voce, nel modo in cui canta soprattutto. La voce, il carattere, il modo di stare sul palco, il modo di aver condotto una vita sembra sommessa, ma invece è stata una donna coraggiosa. E io la vedo immensa. Sì. Fedele a se stessa, ha pagato tutto e si è arricchita di tutto. È un'artista che mi commuove. Allora, Chiara, noi vorremmo fare ascoltare un'altra canzone, che è Vorrei, che è una canzone particolare, oltre nel testo e nella musica, ma perché è anche una canzone legata al video. Un video particolare, molto bello, significativo, vi invito anche a guardarlo su YouTube. Cliccate su YouTube, cercate Vorrei, Chiara Ceria, Andrea Barsali, e sicuramente vi appare questa meravigliosa canzone. Vorrei è un testo, una canzone d'amore di una donna onirica, diciamo così, perché è scritto anche questo di notte, vissuto di notte, una notte blu, una donna che ha vicino qualcuno che ama molto, ma che gli dice gli sussurra un vorrei, ma non sveglia, non tocca, non... fa sentire la sua presenza con un soffio. Mm-hmm. E poi c'è questa notte blu che a me mi ha colpito tanto ed è rimasta. Mm-hmm. L'hai scritta di notte, hai detto, però l'hai scritta ad occhi chiusi. Sì. Ho chiuso gli occhi. Me la sono proprio immaginata. Te la sei immaginata, esattamente. Sì, come un film, sì. Chiaramente. Ecco, così diciamo, parliamo anche un attimo del video, così mettiamo un po' di curiosità, invitiamo un po' ad andare a vedere anche questo video, e sarà con l'occasione anche di ascoltare la vostra musica. Un video un po' particolare in cui c'è questo personaggio seduto su questa scacchiera con una maschera bianca che sta cercando qualcosa, e poi questa pallina che Poi alla fine del filmato a questa persona gli riappare, gli consegnano questo pacchettino e dentro c'è questa pallina. Allora, io devo dire la verità, questo è un video fan fatto da una persona che ci ha seguito fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a suonare insieme io e Andrea, ed è rimasto molto colpito dal nostro modo di fare musica e soprattutto da Vorrei, e ci ha fatto questo regalo lui e la sua equipe, e ha immaginato Vorrei in questa maniera. Noi non abbiamo fatto grandi domande sul perché, sul per come avesse interpretato questo corto, perché sembra proprio un cortometraggio, in questa maniera, ma ci ha colpito molto, è vero, ha tante sfumature misteriose che portano a qualcosa di molto lontano e poi di nuovo a una vita del quotidiano, perché il video finisce appunto con questa pallina in un semplice bar con i due CD vicini praticamente. La pallina sì, penso che sia un qualcosa che riporti a un'epoca di giovinezza, un ricordo che si custodisce, che si tiene con sé e che si ritira fuori anche in un momento particolare della propria vita da adulto, per ricordare quel profumo, quel colore e quell'amore che hai avuto in un tempo passato, ma che non va via. Benissimo, sì, dobbiamo anche sottolineare che questo, se si può dire, Chiara, se si usa ancora, è il singolo, va bene? Il singolone, come il diciamo. Il singolone, anche se è un po' dimenticato il singolo, cioè in ogni caso il pezzo è stato messo, ultimo pezzo dell'album, è una scelta o così una cosa casuale? No. È una scelta. Assolutamente una scelta. Una scelta. E doveva essere così, il pezzo è molto bello, sì. Molto accattivante, è leggermente diverso dagli altri pezzi perché... leggermente meno, non curato nel senso negativo, leggermente più accattivante, che si può sentire. Volevamo un pezzo pop. Esatto, ha qualche tendenza al pop, ma un pop. Volevamo un pezzo pop, perché a me Andrea piace molto questa però cosa. qualcosina c'è, dai, possiamo dire questo. Ecco Chiara, io direi anche che possiamo dire dove i classici riferimenti web, dove e che consiglio vivamente si può acquistare anche il vostro CD. Allora, Mezzanotte e Mobile Identità si possono acquistare sulle maggiori piattaforme web tramite CD Baby. Basta cliccare CD Baby, Mezzanotte o Mobile Identità, e si trova con grande facilità. Il modo per scaricarlo è semplicissimo, invito tutti a farlo, si possono scegliere anche pezzi singoli se non si vuole tutto il disco, si può avere anche il disco comunque tra me, abbiamo scelto questo portale perché ha la possibilità di spedire anche il disco fisico e quindi ci sono queste due opportunità. Si può andare a Genova in via del Campo 29 Rosso, per chi fa una bella passeggiata a Genova può arrivare lì e guardare un posto magico dove ci sono tanti tanti dischi, ci siamo anche noi, oppure ci possono contattare tramite le nostre pagine ufficiali di Mezzanotte e Mobile Identità o su Facebook contattando me o Andrea, e naturalmente noi abbiamo un sito carino da vedere perché c'è tutto, dalle foto, i video, gli appuntamenti, quello che dicono di noi, quello che che piace e non piace. Invitiamo anche a scrivere su questo sito, che è www.mezzanotte.com. Ecco, io mi permetto anche di dare un consiglio, Chiara, perché la vostra musica è indefinibile nel senso positivo della cosa, perché uno, per capire, deve inserire il vostro CD, premere play, chiudere gli occhi, lasciarsi prendere dalla tua mano e ascoltare il canto, il racconto della tua voce e le note di Andrea Barsoli. Grazie, questo era il nostro sogno. Questo è quello che ci auspichiamo quando pensiamo che qualcuno si porta con sé, magari dopo un nostro concerto, il disco. Allora, Chiara, che li tenga compagnia. Noi ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo che l'intervista prosegue, dopo la chiusura di Vorrei arriverà con noi Andrea Barsoli a raccontarci un po' la sua esperienza in questo CD. Blu Radio Veneto ti ringrazia. Io ringrazio voi per la gentilezza, per il tempo dedicato, e aspetto di sentire Andrea cosa dice. Grazie Chiara, grazie di cuore veramente per la tua disponibilità, per la tua musica e per tante altre cose. Grazie a voi, a presto. Ciao Chiara. Ciao. Questa mia notte che sa di nostalgia, vorrei il mio domani, il tempo, l'allegria. Vorrei i tuoi pensieri confusi con le mani intorno ad un viso che non ricordi più. In questa mia notte che sa di gelosia, che ricordi non lascino la scia. Vorrei che il mio cuore battesse senza aiuto intorno ad un braccio che non ricordo più. Com'è? Questa mia notte che sa di lucciole. Blue Time. sì, Maurizio, a me è venuta un'emozione grandissima ascoltare questa voce, queste note. Certo. Così abbiamo avuto modo di apprezzare le note di Andrea, di poterlo anche introdurre. Certo, certo. Buonasera Andrea, come stai? Buonasera a voi. Ciao Andrea, benvenuto tra gli amici della musica di Blu Radio Veneto. Grazie. Sentirai una nota di sottofondo perché Leo sta provando. Hai sentito Leo? Hai sentito sì. Andrea? Leo è un musicista che dopo suonerà con Alberto, sta provando. Il live è così, caro Andrea, si prova continuamente, no? Cosa dici? Certo, verissimo. Ok. Allora, Andrea, parliamo sempre della Toscana, giusto? Sempre da, da Pontedera, vero Andrea? Molto vicino a Pontedera. Molto vicino a Pontedera, quindi provincia di Pisa. Sempre provincia di Pisa, sì. Esattamente. E sì, a Pisa e Livorno voi avete fatto un pezzo di Ciampi, bellissimo secondo me. Ciampi è un musicista straordinario e giustamente dopo molto tempo è stato levato dall'oblio, Andrea. Cosa dici? Ma c'è a Livorno un concorso abbastanza importante, insomma, su Ciampi. E non so a cosa ti riferisci quando dici tolto dall'oblio. Dall'oblio, cioè era stato dimenticato, questo voglio dire. Sì, probabilmente qualcuno ha avuto il buon cuore di farlo riscoprire dal posto dove era stato messo. Esattamente. Era un carattere difficile, però era un grande musicista, un grande autore. È stato riscoperto ed è giusto che sia così, secondo me. Anche dai giovani, soprattutto, Andrea. Certo. Assolutamente. E parliamo di Andrea come arrangiatore e protagonista del disco. Però volevo chiedere una cosa subito Andrea, che è una domanda ma che non è una risposta così scontata, ma perché suonare con Chiara, Andrea? Ma ora posso dirtelo, all'inizio così per prova, un amico in comune ci ha fatto incontrare, conosceva lei, conosceva me, ma io non conoscevo Chiara. E conosce molto bene come suono e conosceva il modo di cantare di Chiara e ha detto ma perché non vi incontrate? E quindi ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a suonare insieme e mi sono accorto che lei sostanzialmente canta come io suono. Ecco qua. Con la stessa intenzione e con tutto il cuore che credo ci voglia nella musica. E questo basta, credo sia poco ma tutto, insomma. No, era proprio questo il motivo della domanda, proprio perché l'impressione è quella, che quando Chiara canta e tu suoni è proprio una cosa unica. Questa è l'idea che voi date a chi ascolta la vostra musica. Beh sì, diciamo che il disco è venuto fuori appunto da questa cosa che ti ho appena detto, perché ce ne sono tanti di prodotti in giro dove c'è una bella voce e una chitarra che accompagna. La mia non è assolutamente un modo di essere pretenzioso, non ho chiesto di fare questo, il disco è venuto da solo, proprio perché è stata la prima volta, io vengo da background classico, avendo fatto il conservatorio così, però non sono mai stato molto vicino, tranne pochissimi casi, alla musica classica propriamente detta, ecco, quella che ci fanno studiare in conservatorio. Però adoro la chitarra classica e adoro la tecnica classica sulla chitarra. E non avevo mai avuto modo di fare qualcosa del genere in una veste che fosse un pochino più commerciale e meno di nicchia di quello che è poi il recital appunto di chitarra classica. E con Chiara ho avuto questa opportunità e l'ho presa a piene mani, insomma. Però un'altra cosa hai fatto per i buoni rockettari: per anni hai suonato in una tribute band di Deep Purple. Certo. Quello è importante, dobbiamo sottolinearlo. L'elettrica che noi rockettari amiamo particolarmente, i Deep Purple, sappiamo chi sono i Deep Purple. Anche tu, Alberto, cosa dici? Sto proprio parlando con Alberto. Deep Purple, come mai sei passato, giustamente, secondo me, hai abbracciato anche la chitarra elettrica, Andrea? Ma senti, perché io mi sono ritrovato a diplomarmi che avevo 20 anni più o meno, 19-20 anni, e non avevo mai visto l'ombra di uno strumento elettrico. Cioè, anche in conservatorio, ora per fortuna ho finito il corso di jazz, mentre ai miei tempi, diciamo, non c'era niente che fosse, che esulasse appunto dal repertorio classico. Esattamente. E mi mancava questa cosa, mi mancava prendere la musica con uno spirito un pochino più leggero. Certo. E amici mi hanno contattato e poi mi hanno proposto di fare questa cosa. Poi ho scoperto appunto che Blackmore era comunque un appassionato grandissimo di musica classica. Sì. E quindi mi ci sono un po' rispecchiato. Mm-hmm. In qualche adesso modo. Fa musica quasi folk, anzi assolutamente sì. Folk adesso, sì folk inglese, non soltanto folk inglese. Con la compagna. E con la compagna. Ma giustamente i dettami di certa musica classica Richard Blackmore non li ha mai abbandonati e vedi caso questa sua nuova vita musicale si rispecchia proprio adesso. Bene. Bene, allora io direi, Andrea, di ascoltarci la traccia numero 8 di questo CD che fino all'ultimo minuto. Cioè, cosa comporta anche a suonare queste note? Cioè, come le inserisci nella voce di Chiara? Ah, guarda, questa è un po' un'eccezione nel disco da un punto di vista dell'arrangiamento, perché ho cercato di riprodurre con le nozioni tecniche che ho quella che poi è la linea originale. Di tutta la strumentazione appunto degli archi che sta dietro alla canzone originale, perché è troppo bella, perché è perfetta così com'è e non, secondo me non c'è modo di renderla migliore. Ci sono milioni di modi di stravolgerla, di reinterpretarla, però di renderla migliore no. Io ho trovato in questa mia versione un modo per renderle giustizia con due mani e con la voce di Chiara. Certo. E ti ricordi da che album di Piero Ciampi? No, non mi ricordo. In ogni caso un album significativo. Adesso lo sentiamo. Sentiamo questa versione molto bella, molto intensa, molto significativa, scusate la ripetizione, di Andrea e di Chiara. Thank you. che si cerca. Blue time. Blue time. 22:04, ancora qualche minuto in compagnia di Andrea Barsali, che questa sera con Chiara Gerì ci hanno tenuto compagnia con loro CD Mezzanotte. Andrea, sei un grosso conoscitore di chitarra, dello strumento proprio. Che tipo di strumento hai suonato in questo pezzo? Ho suonato uno strumento costruito da mio padre, perché fa è liutaio. È un liutaio, chiaramente. È un liutaio, quindi gli ho fatto costruire un po' di chitarre, quindi l'elettrica, la folk, anche la classica. Erano corde a nylon questi qua? Andrea. Queste sono corde nylon, sì. Che suono è? Come mai? Che suono ha il corde a nylon? Che suono dà alla voce di Chiara la sonorità delle corde a nylon? Sicuramente la morbidezza, credo. Però io credo, sono un sostenitore accanito delle dinamiche, e quindi è uno strumento molto versatile, con si può sia dare dolcezza che astrezza, che potenza, oppure note soffiate, si possono fare un sacco di cose con uno strumento che, certo, che suona bene. E quando tuo papà costruisce una chitarra, gli dai qualche input? La vorrei in questa maniera, perché voglio suonare in questa maniera? Per queste che gli ho fatto fare per me, sicuramente. Sì. Ma non è tanto la fase di costruzione, sono i ritocchi dopo. Ah, che è una cosa molto significativa. E per costruire, come abbiamo detto prima con Chiara, tu hai praticamente la voce di Chiara al centro, tu hai costruito la musica intorno alla voce di Chiara. Sì, in gran parte del disco, in alcune parti la chitarra ha una sua voce propria. Che affianca e duetta con Chiara, sì. Certo. In primo piano, diciamo. Hai avuto o penso che hai ancora una bella collaborazione con Andrea Bocelli? Ma sì, sono collaborazioni sporadiche che capitano, dipende molto dai suoi impegni. Chiaramente, facendo il tipo di musica che fa, spesso ha più bisogno di un'orchestra, e certo, come sappiamo, certo, insomma, la chitarra non è quasi mai presente in un'orchestra, almeno classica, quando uno canta un'opera o qualcosa del genere. Per altre situazioni sì, è capitato, ma perché facevamo anche alcune cose del suo repertorio, diciamo, pop, per cui c'erano delle parti sia di elettrica che di classica, niente, sono state belle esperienze comunque. Tra l'altro anche ho letto, e mi piacerebbe anche che ne parlassi, dell'Accademia della Chitarra. Ah sì, si chiama Accademia, è nata come Accademia della Chitarra da me e altre 4-5 persone 10 anni fa. E poi si è sviluppata e oggi praticamente in questa nuova sede vengono insegnati su tutti gli strumenti, ci sono corsi anche di musica d'insieme, sia classica che moderna, gli app training, c'è l'educazione dei bimbi, metodo Suzuki, è una bella realtà che conta 340 iscritti, e quindi siamo orgogliosi e felicissimi di questa scuola. Che opera sempre lì in Toscana? A Ponte d'Era, certo. Poi tu hai girato le piazze, hai suonato nei teatri, soprattutto sei stato anche artista di strada, tra virgolette. Sì. Con si chiama Compagnia Teatro Guascone, con Andrea Kemmerle, ho collaborato moltissimo anche con Carlo Monni, Andrea Cambi, abbiamo, eccetera. Sì, abbiamo girato in teatri, abbiamo fatto spettacoli per strada sotto la pioggia, abbiamo nelle gallerie delle stazioni, abbiamo fatto insomma un po' di cose. Quindi musica a 360 gradi, Andrea, assolutamente. Senza confini, sempre partendo dall'ambito classico, tra virgolette, poi sviluppando tanti ambiti, chiaramente. Sì, cerco di spaziare il più possibile, ma non per farmi una cultura, per esigenza personale, insomma. Mi piace, anche poi insegnando, mi piace avere comunque un'idea un pochino più ferrata su maggior numero di cose possibili io per esempio quando insegno, anche se uno viene e decide di fare un corso di chitarra classica, poi gli faccio comunque vedere anche altri tipi di musica, gli faccio conoscere altre tecniche, continuando poi nel suo percorso, nel suo obiettivo. Però credo che sia giusto non fargli passare quello che ho vissuto io al conservatorio. Certo, sì. Andrea, allora, siamo in chiusura. Io parlavo anche con Chiara al telefono, e poi ne parleremo anche con Stefania Schinto, in occasione della prossima uscita di un nuovo CD, di riuscire a fare un live qui in studio. C'erano tantissime altre cose da parlare, però il tempo, come sempre, corre, scappa via. E organizzare appunto un live con te e Chiara qui a Padova, a Blu Radio Veneto. Ok, allora Maurizio, lasciamo anche Andrea con un ultimo brano, La donna cannone. Sì, Andrea, il pezzo che De Gregori scrisse, voleva che fosse interpretato da Mia Martini, che poi non andò più a infine. Perché avete riletto questo pezzo bellissimo, questo classico italiano? Esiste una bellissima versione live di Mia Martini. Esattamente. E io in Chiara ci vedo tantissimo di Mia Martini. E non è a caso che vi ho chiesto di Mia Martini prima. Sì, è stato all'inizio è stato un esperimento. Io l'avevo già suonata, gliel'ho proposta, e lei all'inizio diceva: ma io non lo posso cantare questo pezzo. E invece poi se lo è cucito addosso, secondo me benissimo. E sì, è vero, io ho fatto la mia parte con l'arrangiamento, però l'altra grande parte ce l'ha messa Chiara, chiaramente. Okay. Ok, allora Maurizio, abbiamo finito. Abbiamo finito, adesso avremo Leo Mignoranza ed Alberto Cendro, se sono i pazienti, ma adesso cominciano anche loro. Allora, Andrea, grazie di cuore anche a te, un grandissimo abbraccio da parte mia, da parte di Maurizio, da tutta Blu Radio Veneto. Ringrazio ancora Chiara Geri e non voglio dimenticare Chiara Palumbo e Stefania Schinto, che veramente hanno collaborato per far sì che questa intervista potesse andare in onda. Vi aspettiamo qua, Alberto. Bene, e Chiara, assolutamente. Grazie mille a voi e buon proseguimento. Grazie. Un abbraccio di cuore a tutte e due. Grazie mille. Ciao, Andrea. Ciao, grazie. Ciao. Questo mio enorme cuore fra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. Thank you.